Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti a Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Cosa hanno in comune la musica in MP3, i netbook e le flip camera di fascia bassa? Non possiamo cavarcela rispondendo che si tratta semplicemente di prodotti e servizi di successo perché costano poco. Nel 2009 su Wired Magazine apparve un articolo in cui un certo Robert Capps disse che un numero crescente di persone era disposto a cedere qualcosa sotto il profilo della qualità, non solo perché si spendeva meno, ma perché la condivisione delle informazioni e dei contenuti ne accresceva il valore, fino a far passare in secondo piano i limiti tecnici e persino l'esperienza d'uso, come accade con la musica compressa digitalmente. Secondo Capps, eravamo alla soglia di una nuova rivoluzione dei mercati, la Good Enough Revolution. Ne parliamo tra pochissimo. The idea of quality was changing. That, you know, you sort of had this initial idea that you know, music quality was about fidelity and it was about, you know, really being able to hear the notes and the richness of the sound. And then the MP3 came along and allowed you to get it on the internet, and it was much worse quality by its very nature. I mean, it sounded kind of terrible, especially at first, but it just took off like a rocket. That's what everybody wanted. And so there's a sort of outcry from, you know, audiophiles everywhere of like, you're killing our sound, you know, I still want my vinyl records, but nobody cared about that, you know. What was happening was so much more revolutionary in being able to trade your music. The MP3 certainly unseated the CD, but it never really rose, you know, even now it hasn't really risen to be the same quality as the CD, right? Like, but really it doesn't matter. It's like, it's like our, like the change is so profound that what we want, you know, as society, or what we want as consumers, has just fundamentally shifted, right? And really what we want is, you know, the accessibility of being able to trade things and being able to share things, be able to buy over the internet, be able to get our music when we want it, be able to carry all our songs in our pocket. Quella che abbiamo sentito era la voce di Robert Capps in un podcast che risale anche lui al 2009, cioè quando uscì questo articolo, che parlava di Good Enough Revolution, che è l'argomento della puntata di oggi, di cui parliamo innanzitutto con Luca Conti. Ciao Luca. Ciao Antonio. Allora, Luca Conti, storico, direi, blogger, giornalista, esperto di social media. Tu hai un blog da quanto tempo, Luca? Questa è una delle cose che più impressiona. Dal dicembre del 2002, dal 13 dicembre. Ecco, sicuramente in tutti questi anni tante delle logiche di cui parliamo normalmente in questa trasmissione le hai colte e non ti sarà sfuggito. Menzioniamo prima però un attimo l'indirizzo del tuo blog, non dimentichiamolo, www.pandemia.info, anche se tu sei sempre più presente altrove, diciamolo francamente. Ultimamente sono più presente su Twitter, lo confesso. Ecco, benissimo. Non ti sarà sfuggito qualche anno fa quando uscì questo pezzo che, partendo dall'esempio della musica in MP3, che come abbiamo sentito poco fa rappresentava forse la prima sconfitta della qualità, nel senso che ormai il mercato si era abituato, grazie alla digitalizzazione, ad un livello di qualità della musica inferiore rispetto alla generazione tecnologica precedente, cioè il CD, perché c'erano altri vantaggi. E questo primo esempio serviva a giustificare, almeno la teoria di questo pezzo, che uscì addirittura una un'evoluzione economica di un certo tipo. Ci sono altri esempi che poi vedremo più nel dettaglio. Intanto vorrei chiederti a pelle se secondo te in questi 2 anni e passa che sono trascorsi dall'uscita di questo pezzo possiamo dire che effettivamente almeno una parte di questa trend all'inverso della qualità nell'evoluzione tecnologica si è verificato. Si è verificato per un certo periodo di tempo, ma credo che oggi siamo in controtendenza, o quantomeno l'evoluzione della tecnologia ha fatto sì che gli utenti, potendo scegliere, andassero su soluzioni di qualità più alta. E poi vediamo nel dettaglio i prodotti. Però già il video in HD è un esempio. Anche l'MP3 non è l'MP3 con un bitrate, una qualità bassa, ma è una qualità che si sta alzando. Quindi quando le soluzioni tecnologiche, dal mio punto di vista, ti anticipo la tesi brevemente, si arrivano a un livello tale che diventano economicamente vantaggiose e facili da usare rispetto alla prima versione che era bassa qualità e basso costo, gli utenti migrano su una qualità più alta. Quindi è un po' l'apri mercato, ma non il mercato, secondo me. Ecco, questo è abbastanza interessante perché rivela anche lo scontro tra due ideologie di fondo, tra utenti per esempio di device elettronici. Io vedo molto in questa dicotomia anche la tradizionale polemica tra utenti per esempio di prodotti Apple che costano un po' di più ma che sono dal punto di vista del design, della performance, sotto tanti punti di vista sono decisamente superiori, e magari invece oggetti che hanno un sistema operativo più aperto e diciamo così più fallace potenzialmente come Android, nel senso che poi diventa l'hardware che tu hai in mano a rappresentare il limite, no? Ci sono alcune applicazioni che con un hardware povero sì le puoi installare ma vanno lentamente, e questo non sarebbe mai possibile nel mondo Apple, dove c'è qualcuno che stabilisce che certe applicazioni, siccome andrebbero male, farebbero fare brutta figura a tutto l'ecosistema, no? a tutta l'esperienza dell'utente, quindi non funziona. Ecco, un dato interessante però che Android sta conquistando indubbiamente delle quote di mercato che nessuno si aspettava rispetto a Apple, per esempio negli Stati Uniti, con una politica completamente diversa, è presente su tutti i cellulari, c'è una grande apertura. Tu che ne pensi, Luca? Io sono un utente Android, quindi ecco. metto già le mani avanti, ma nonostante questo ti dico che Android è molto diverso oggi rispetto a quello che era un po' di tempo fa, per cui è vero che qualsiasi produttore di telefonini può usare il sistema operativo Android liberamente, gratuitamente, e quindi anche il prezzo del telefonino finale ha dei costi più bassi per questo, oltre altre economie di scala che su iPhone non avvengono, quantomeno anche una politica di prezzo diversa. Però è vero anche che Android, prima versione, qualcuno si ricorderà, quel telefono che credo si chiamava G1, Il Google Phone era stato chiamato. Il Google Phone poi è stato ribattezzato anche il Nexus One, che era il primo telefono che Google ha firmato e che è anche il telefono che io attualmente utilizzo. La versione di Android attuale 2.3 è completamente diversa, è molto molto molto più performante e vorrei dire ormai paragonabile in tutto e per tutto a l'ultima versione di iOS, anzi il multitasking è arrivato prima su Android che su Apple, per cui in questo caso credo il discorso sulla qualità non sia, almeno sul fronte del sistema operativo, la piattaforma non credo sia non porti la discriminante. No, ok, no. Va detto però che proprio per la sua natura di maggiore apertura il mondo Android si presta di più ad aggredire i mercati dove trionfano gli smartphone di fascia bassa, cioè grazie ad Android mercati come la Cina, l'India, sia come numero di utenti sia come costruttori, no? Pensiamo a costruttori come per esempio Huawei, no? Che ha cominciato a invadere il mercato occidentale con telefoni a basso costo come quello che tengo in mano in questo momento, cioè l'Ideos, in realtà il nome del modello è U8150, l'Ideos è uno smartphone che fa molte cose che fanno smartphone di fascia alta, chiaramente con una performance molto più bassa, e costa soltanto 99 euro, cioè un quinto di quello che costa uno smartphone di fascia alta, eppure questo piccolo oggetto da 99 euro monta la versione più avanzata di Android, quindi dà accesso a tutte le applicazioni del mondo Android. si devono spaventare, diciamo così, i costruttori che vivono in un mondo più chiuso, più proprietario come Apple, oppure semplicemente si spartiranno il mercato? Cioè qui comunque finirà nelle mani di magari miliardi di cinesi, eccetera, però noi comunque vivremo nel mondo fatato di Steve Jobs. Guarda, io sono sempre stato un, non voglio dire un fan di Nokia, perché sarebbe esagerato, perché non ho mai fatto il tifo, non sono un tifoso neanche di calcio, e per quanto mi reputo religioso, non sono religioso dal punto di vista tecnologico, e, anzi, mi reputo agnostico, quindi ho un telefono Android, ma ho anche un MacBook, un computer con Windows Vista e con un Windows 7, quindi... Sono uso diversi. Sei laico. Esatto. Okay. Esatto, sono laico. Quindi, detto questo, ritornando sul tema che abbiamo lanciato, 2 anni fa, quando è uscito il primo iPhone e le primissime versioni successive, io usavo dei telefoni Nokia e dal punto di vista di Nokia non percepivo nessun problema, perché dicevo, è vero che Apple sta rosicchiando quote di mercato, ma Nokia è un'azienda forte, soprattutto in mercati emergenti dove la necessità dello smartphone non c'è, e quindi si può collegare a internet, fare altre cose anche con gli SMS o con gli MMS, che per noi sembrano primitivi, ma in realtà generano montagne di ricavi, soprattutto in paesi, e sono usatissimi da centinaia di milioni di persone nei paesi più poveri, tra virgolette. Oggi Nokia ha dovuto fare un accordo con Microsoft, buttare via il suo sistema operativo Symbian, sì, e prendersi qualche miliardo da Microsoft per aprirgli i suoi telefoni a Windows Phone. Quindi che cosa è successo? Che io ho perso come percezione, e anche il management di Nokia evidentemente ha perso, è che anche il mercato emergente ha delle esigenze che cambiano. E il mercato degli smartphone in generale, proprio per una tendenza dell'evoluzione del mercato verso internet e verso telefonini che assumono altre funzioni, come per esempio quella della fotocamera e della videocamera, che va a contrastare anche questa con l'articolo di Wired, sono evoluti in un modo che Nokia non aveva previsto. Quindi Nokia, che fondava il suo potere non solo sugli smartphone nei paesi ricchi, ma anche su quelli che vengono chiamati future phone, cioè una via di mezzo tra smartphone e telefono normale, nei paesi poveri, si è vista invece in questo caso soppiantare, come dici tu, da Android su telefoni che costano relativamente poco, ma per quei mercati sono l'equivalente di uno smartphone a livello di potere d'acquisto. Torniamo di nuovo all'esempio dell'MP3, perché addirittura noi abbiamo parlato solo di device, ma i signori Capps e Robinson, che scrissero questo articolo nel 2009, addirittura avevano la pretesa di dire che stavano cambiando i nostri criteri estetici a causa di questa rivoluzione in corso. E sentiamo cosa dicono ancora a proposito del caso MP3. Rob, in your piece you mentioned a Stanford professor who has found that his students have come to prefer the MP3 sound. Yeah, a professor of music at Stanford named Jonathan Berger actually tests all his incoming students. And he plays the same set of symphonies and music. Well, they range from symphonies to rock and roll. And he plays them in various formats of high and low quality. And every year he's finding that more and more students prefer MP3s, specifically to rock. And they actually, rock music, sorry. And they actually like the distortion that the compression causes. I mean, that's what they've grown up with, so it's what they think of as, you know, as what it should sound like now. You know, so, yeah, we've also sort of aesthetically adapted, you know, in the case of the MP3. Insomma, qui hanno fatto davvero un passo avanti, addirittura i professori di Stanford sono giunti alla conclusione che le giovani generazioni addirittura non solo non distinguono il suono compresso in MP3, ma lo preferiscono perché appartiene proprio al tipo di sound. della loro vita. Va anche detto che questa musica non viene ascoltata in modalità audiofilo a casa davanti a un grande stereo Bang & Olufsen, come forse si aveva il tempo di fare una ventina, una trentina d'anni fa. No, si ascolta in mezzo al traffico ed è in mezzo, diciamo, la musica entra in ogni momento della nostra vita grazie a questi lettori, quindi effettivamente non è facile fare discorsi approfonditi di questo tipo. Intanto dovremmo avere in collegamento da Milano, credo, Paolo Manasse. Ciao Paolo. Ciao Antonio, ciao a tutti. Paolo Manasse, che è un economista che insegna all'Università di Bologna, ma anche alla Bocconi, direi soprattutto un ottimo divulgatore di fenomeni macroeconomici, lo ascoltiamo spesso intervistato in televisione, alla radio, sui giornali, ha fatto una comparsata anche su un sito della CNN, ho visto proprio oggi, perché ha spesso la capacità appunto di raccontare questi fenomeni a un pubblico non particolarmente preparato, come per esempio il sottoscritto. Io vado spesso sul suo blog che si chiama Back of the Envelope Economics, e l'indirizzo è paolomanasse.blogspot.com. Allora Paolo, tu hai dato un'occhiata a questo vecchio articolo e ti chiediamo il punto di vista dell'economista: secondo te, se questa good enough revolution sta accadendo, e se sì, che tipo di impatti ha sui grandi mercati, per esempio della musica, dei contenuti, come abbiamo visto adesso, o anche dei device tecnologici? Allora, ma diciamo che ho letto questo articolo e la mia sorpresa è derivata dal fatto che dal punto di vista economico era esattamente quello che mi aspettavo di leggere, nel senso che la sorpresa non c'è stata, anzi una conferma di quello che gli economisti sanno un pochino da sempre. Quello che gli economisti sanno da sempre è che nel giudicare sostanzialmente la domanda per un bene, i consumatori guardano non solo al prezzo, ma al prezzo rapportato alla qualità. E la qualità è di solito una delle cose che l'innovazione tecnologica accresce. Quindi in qualche modo, quando il rapporto tra il prezzo e la qualità tende a ridursi, questo vuol dire sostanzialmente si fanno un buon affare, quindi per ogni euro speso in un device o in qualsiasi altro bene si ottiene un bene di consumo di maggiore qualità, questo fa aumentare la domanda. Quindi non mi sorprende per niente il fatto che ci siano fortissimi fetti di mercato che vanno in maniera crescente a prodotti di bassa qualità, quando questi prodotti di bassa qualità hanno una qualità forse un pochino più bassa di quelli così più di alta qualità, ma hanno un prezzo così più basso che rende comunque il bene un affare. Quindi questo è una cosa che accade sempre, e direi che accade proprio con il progresso della tecnologia. Ecco, non credi che alle volte come un ulteriore elemento di distorsione in questa evoluzione entrano in gioco alcune grosse cantonate degli uffici di marketing, che spesso all'interno delle aziende, per esempio di elettronica, lanciano un prodotto mirando a un mercato, poi scoprono in realtà che il prodotto ha successo con un mercato completamente diverso. Faccio l'esempio del netbook, no? Che fu lanciato dalla Asus quasi come un'idea sperimentale, cercando di riutilizzare dei processori Celeron che ormai non avevano più un grande senso nel mercato dei notebook, che stava crescendo con altri processori dual core. Ebbene, Asus pensò di commercializzare questi piccoli computer che pesavano sotto un chilo e che costavano meno di $300 ad una fetta di mercato che proprio non aveva il computer, cioè le persone anziane e i bambini, tant'è che questi primi computer vennero chiamati gli EEE, Easy to Learn, Easy to Play, eccetera. Ebbene, la cosa che scoprirono è che nella prima settimana, nei primissimi giorni, ci furono 30.000 ordini, andarono subito esauriti il primo lotto, e provenivano questi ordini tutti dai geek, cioè le persone che fino al giorno prima ambivano ad avere un computer così semplice, così leggero, ma che costasse sotto i $300, mentre prima l'unico prodotto paragonabile era magari il Sony Vaio, che ne costava 2.500. Chiedo un parere sia a te Paolo, sia poi a Luca, che è lo smanettone di turno. Ma anche qua, voglio dire, se devo così dare sempre un parere come economista, che la cosa non è sorprendente, nel senso che di solito quando si lanciano nuovi prodotti non si sa bene se questi nuovi prodotti vanno a sostituire dei prodotti già esistenti oppure sono complementari rispetto a prodotti già esistenti. Quindi in questo caso credo che il geek, come lo chiami tu, non è che abbia preso il suo sofisticato computer portatile della Apple, piuttosto che molto potente con cui fare cose straordinarie, lo butti nel cestino e lo sostituisci subisca con le nuove tavolette, è naturalmente il nuovo device è complementare, quindi sostanzialmente se aumentano le vendite di prodotti molto sofisticati, aumentano anche le vendite di questo, perché questo in qualche modo svolge una funzione complementare, uno se lo porta dietro, ci fa, non so, delle cose più semplici. E quindi la sorpresa probabilmente sta nell'aver fatto cambiato un prodotto, come cercando di sostituire delle cose esistenti con invece un prodotto che andava a essere complemento con una cosa che comunque continuava a vendere, quindi gli utenti erano molto diversi da quelli che si pensavano. Questo potrebbe essere una spiegazione, me la butto lì così. E tu, Luca, invece, che a pelle, quando apparve questo computer che pesava meno di un chilo e che costava meno di $300, tu avevi già il tuo, non so cos'era, un MacBook, o comunque avevi un computer potente con cui lavoravi normalmente. Hai pensato di comprarlo o no, intanto? Prima domanda. Non era good enough, nel senso che la primissima versione aveva lo schermo da 7 pollici ed era uno schermo troppo piccolo. Sì. Poi ne è uscita una da 9 e cominciava quasi a andare bene. Il problema è che pochi mesi prima mi ero già comprato un altro computer per cui avevo speso 1000 euro 4 anni fa, che aveva 12 pollici e che tuttora continuo a usare e che a mio avviso tra 10 e 12 è la dimensione giusta per un computer portatile. Tant'è poi che il mercato è evoluto verso quella dimensione di schermo, per cui oggi i netbook che tuttora sono più diffusi hanno una risoluzione, un numero di pollici più o meno compreso tra 10 e 12. Ritornando, agganciandomi alle cose che diceva Paolo e alle prime riflessioni che abbiamo fatto, non posso che concordare con Paolo e dire che i netbook di fatto non sono la dimostrazione della tesi che gli utenti vanno sulla bassa qualità quando costa poco, o quantomeno che sono d'accordo sul discorso del rapporto qualità-prezzo quando è così elevato anche a discapito della qualità, però nel momento in cui c'è un'evoluzione tecnologica e questo rapporto qualità-prezzo non rimane costante ma magari cala leggermente, quindi diventa leggermente meno conveniente, ma la qualità sale a un livello superiore, gli utenti passano alla successiva tecnologia, tant'è che i netbook nel 2010, non voglio dire sono crollati, però stanno cedendo grandi quote ai tablet, indubbiamente. Va anche detta una cosa, però, stiamo forse un po' sottovalutando i trend d'uso, come evolvono. Io, che insomma facevo l'università nei primi anni 90, non ricordo di aver mai visto uno studente andare col computer all'università. È vero che poi nel frattempo l'informatica è entrata nelle nostre vite, ma un fenomeno che io ho visto dopo l'introduzione del netbook è che tantissimi studenti hanno cominciato a portarsi dietro questi computer sempre con loro, mentre prima il dibattito tra tutti gli esperti era: ma l'oggetto che ci porteremo sempre con noi deve avere una tastiera oppure no? Ebbene, il netbook in quei 2 anni, quantomeno fino all'apparizione del tablet, che però non ha chiuso i giochi perché adesso è uscito anche il Transformer che ritira fuori anche dal tablet la tastiera, però in quei 2 anni il mercato, che sembrava dover andare verso per esempio il MID, oppure che era l'antesignano del tablet, il Mobile Internet Device, e invece per un paio d'anni abbiamo visto un sacco di persone avvicinarsi a qualcosa che comunque è un computer, forse perché aveva un prezzo basso, gli potevi far fare una vita pericolosa, perché lo zainetto dello studente è uno dei luoghi più pericolosi per un oggetto elettronico, quindi forse c'era del valore che non era stato visto altrove. Paolo? Ah, sì, ci sono vari aspetti su cui uno si potrebbe raccontare delle cose anche divertenti. Io non so se la cosa insomma è così, ha molto a che fare, però io ricordo proprio a testimoniare il fatto che ci sia anche un rapporto spesso così o di abitudine o affettivo o di novità con gli oggetti. Io ricordo che quando a metà degli anni 80 uscì uno dei primissimi computer portatili, ero allora in Inghilterra, si chiamava Amstrad, pesava tipo 15 kg, aveva un enorme maniglione, vuol dire era tale l'euforia di avere comunque un computer portatile, anche se era pesantissimo, veramente pesantissimo, che comunque io e molti altri come me insomma ce lo portavamo dappertutto. credo adesso le cose siano cambiate molto, però insomma questo fatto, poi naturalmente allora non c'era internet, quindi era molto meno utile. No? Infatti internet ha giocato un ruolo, nel senso che se la leva dalla prestazione di calcolo dell'oggetto che è sempre con te comincia a essere la condivisione, certo, per esempio certo, anche nella musica, cioè più che la fruizione, certo, spesso nella musica è la condivisione. E se il valore va nella nuvola, mi dispiace dover dire a un certo punto cloud in questa trasmissione, perché vengo criticato perché lo tiro fuori troppo spesso, vedo già Luca che sorride, però man mano che tanti servizi vanno nella rete, per esempio anche servizi rivolti alle piccole e medie imprese, piccoli gestionali, pensiamo alle web application pay per use di Salesforce.com, che stanno secondo me togliendo quote di mercato a chi fa software gestionali in Italia. Potrei fare il nome di un paio di aziende, ma non lo faccio per pietà. Luca? Ma guarda, sfondi una porta aperta della notizia di poche settimane fa e della commercializzazione tra poche altre settimane del netbook, il Chromebook di Google, che va proprio in questa direzione, per cui quello è proprio l'estremo a livello di sistema operativo, però lì forse è una battaglia che si gioca altrove, no? La battaglia diventa un cavallo di Troia per vincere un'altra battaglia, quella dei sistemi operativi, perché indubbiamente chi sta soffrendo adesso in tutto questo forse è proprio Windows, perché ecco, ricorderete, no? un altro effetto della Good Enough Revolution dei netbook fu che per un po' Windows decise di mantenere il supporto a XP, che doveva invece morire come sistema operativo, semplicemente perché era l'unico modo per evitare che Linux conquistasse completamente questo settore di mercato. Ti chiedo un'ultima considerazione, Paolo, perché tra poco dobbiamo fare un altro collegamento. Dobbiamo metterla in un cassetto oppure ancora vedremo fenomeni di questo tipo nel settore che ci riguarda, quello diciamo della consumer electronics? Io penso che siamo agli inizi, insomma, di queste nuove rivoluzioni, e quindi sostanzialmente la cosa interessante, credo, è che insomma, quando io non mi occupo in particolare di questo settore, ma insomma ho studiato un po' di così a proposito dei modelli di teoria economica che hanno a che fare con la crescita, e una delle cose che viene sempre fuori è che questi processi di crescita, che sono poi processi di innovazione, sono sempre processi che mandano, che lavorano per discontinuità, quindi ci sono delle piccole innovazioni, degli aggiustamenti, ma ogni tanto ci sono delle grosse innovazioni. Quindi l'impressione è oggi che c'è una frequenza molto maggiore delle innovazioni marginali, ma anche una frequenza molto maggiore delle innovazioni, quelle importanti, di stacco da generazioni a generazioni. E quindi in questa situazione è chiaro che abbiamo uno sviluppo molto molto molto veloce di questo settore, e quindi anche tutti questi fenomeni strani di complementarità, sostituibilità, cose tecnologicamente obsolete che convivono con cose avanzate, diciamo è un momento di grande dinamicità, diciamo, sì. Si va molto per trial and error, e non è un caso che per esempio Google, che fa del trial and error quasi una ragion d'essere, mentre Apple per esempio non può sbagliare tipicamente, no? Se sbaglia il lancio di un prodotto viene molto criticata. Google sicuramente è nella condizione migliore per portare avanti questo tipo di proposizione di valore. Noi ringraziamo tantissimo Paolo Manasse, che ha reso molto più serio e rigoroso questo discorso e l'ho messo nei giusti binari, e noi facciamo un'altra pausa. There's also, there's sort of like a crapification effect, but there's also a succession of crappy stuff that eventually leads to quality. I mean, today's crap, let's say tomorrow's crap, would seem fantastic to us now. So can you tell us, I mean, is that a dynamic that you found is actually real? Well, that's certainly at play. I mean, that really goes back to Clay Christensen's The Innovator's Dilemma, which is... which coined the term disruptive technologies, where technologies start, new technologies tend to get in at the bottom where they're kind of crappy, and then they and then they sort of grow mm-hmm. in robustness because that's where they can... There's sort of this ecosystem where they can sort of find a little niche and a foothold. Yeah, they get a niche and then eventually they... And then eventually just, you know, the sort of Moore's law of everything catches up and they can unseat the top players. Allora, un esempio che facevano Caps e Robinson nel loro articolo del 2009 era quello proprio delle cosiddette flip cam, che a un certo punto conquistarono una quota non indifferente di mercato negli Stati Uniti, prodotte da una società che si chiama Pure Digital. Insomma, rispetto alla tendenza che c'era allora, cioè di una... digitalizzazione che portava per esempio a dei sensori ottici sempre con una maggiore risoluzione, funzioni sempre più avanzate a bordo della fotocamera, eccetera. Invece il fatto di poter estrarre rapidamente queste videocamere, perché in realtà erano delle videocamere che riprendevano dei video molto facilmente, e poi era facile condividerle immediatamente, no? sulle grandi web application, per esempio di video sharing come YouTube, ne decretò il successo per un breve periodo. Poi però cosa successe a questa società che si chiama Pure Digital, Luca? Beh, è successo che è stata acquisita da Cisco, mi ricordo, per una cifra superiore ai 500 milioni di dollari, con grande soddisfazione probabilmente dei venture capital azionisti. E poi una notizia recente di poche settimane fa, di non so se forse qualche mese fa, comunque del 2011, che Cisco nella sua riorganizzazione della strategia ha deciso semplicemente di chiudere questa società da un giorno all'altro. Ecco, quindi non è possibile far rientrare, cioè poi in realtà dopo questa svolta delle flip camera, ormai quel mestiere lì lo fanno i telefoni, lo fanno i 1000 device che abbiamo in tasca, cioè il fatto di avere un ulteriore device che fa velocemente e a basso costo una certa cosa era in sé il germe della sconfitta, no? Cioè se tu vuoi avere un altro oggetto che fa qualcosa... magari lo fa male, eccetera, allora devi andare a beccare veramente una signora nicchia come quella, abbiamo visto, dei lomografi, che addirittura si portano un oggetto molto più pesante di un telefono per fare una fotografia analogica, perché lì le fonti di appagamento e della soddisfazione sono prescindono completamente dall'evoluzione tecnologica, anzi c'è un compiacimento del retro, un po' come gli appassionati dei vinili, per esempio, no? Ma a mio avviso l'articolo che stiamo commentando di Wired del 2009 ha cassato completamente. Ecco, sei giunto a questa... a due anni di distanza. Possiamo dire che si tratta dell'ennesimo tentativo di ricerca di un hype per fare un bel titolo di giornale che poi non si è verificato, Luca? Possiamo dire, perché ce ne sono stati altri, no? I web è morto, le apps si mangeranno internet e così via. In effetti, quando mi hai invitato sul tema della Good Enough Revolution mi suonava veramente bene e confesso di non aver letto l'articolo prima, per cui dopo averlo letto, battute a parte, a mio avviso è veramente un articolo che o scopre l'acqua calda, come diceva Paolo, l'economista, nel senso che i consumatori premiano il rapporto qualità-prezzo a prescindere di qual è il livello della qualità, quindi se questo rapporto qualità-prezzo è alto, per un certo tipo di mercato non è un problema se la qualità in sé è bassa, ma per l'evoluzione per i prodotti tecnologici di cui stiamo parlando, la qualità comunque ha un senso per il mercato, tant'è che oggi, prima Flipcam di cui parlavamo, è passata, già nell'articolo si dice, a un certo punto ha fatto uscire la versione Flip HD, perché era comunque HD così poco costoso che era comunque un'evoluzione che avrebbe dovuto avere, perché il mercato lo chiedeva, e non semplicemente di abbassare ulteriormente il prezzo. E oggi noi a casa abbiamo tutti un televisore HD, e una volta cominciato a vedere la qualità dell'HD non torni più indietro. Ma se questo è valido per questi oggetti con cui ci balocchiamo un po', può essere valido anche semplicemente per chi vende consulenze? Perché io ho un po' la sensazione che certe zone, no? Certe aree dell'economia, come per esempio la consulenza di alto livello, come per esempio anche i servizi di assistenza legale, no? In realtà per tanto tempo ti hanno fatto pagare delle cose di cui veramente i clienti non avevano bisogno. E qui torna il concetto di good enough. E uno dei fenomeni che si sono verificati negli Stati Uniti è che stanno proliferando i pay per use online proprio dei legal services. Sentiamo ancora Robert Capps. Right. What other examples, like surprising examples of this, did you find out there? I found that lawyer, like legal services online was really taking off, and you know, your sort of ability to go and do basic legal services online in a way that, you know, you sort of fill out forms and it even gets reviewed by a lawyer and it's sent back to you. You don't have to go, you know, there's tons of legal services we need to do. We need to set up trust funds for our kids. You know, some of us go through divorces. Lawyers must love this. Well, it's ruining their business. Well, I mean, I think it makes it easier for them too if they get in on the game, right? They don't have to. They can process a lot more people a lot quicker than that. You don't have to take time out of your day to go to a lawyer's office. You can fill out this form, and of course, you're not having the same interaction. You're not having the same fidelity of like being able to like have this lawyer specifically look you in the eye and address every one of your needs and hold your hand and like sort of ask you all sorts of contingencies. It sort of becomes very boilerplate. But you know, for like some huge percentage of legal services, it's just good enough. So good enough in the September issue of Wired. And thank you, Rob Capps, and thank you, Mark Robinson. Yeah, it was fun. Thanks a lot. Va bene, forse si saranno divertiti loro a fare questa intervista, noi ci divertiamo a fargli le pulce a 2 anni di distanza, però ecco qui forse si può lanciare un'ancora di salvezza. In realtà il messaggio finale è: se tu rinunci a cercare di spellare vivi pochi clienti disposti a pagarti cose di cui loro stessi non hanno bisogno perché li hai convinti della necessità di un certo numero di servizi accessori, la storia degli avvocati che veniva citata è abbastanza importante, sapete quanto costano gli avvocati negli Stati Uniti, addirittura c'è, si può parlare di una differenza sociale tra chi può permettersi questi servizi e chi non se li può permettere nell'affermazione e nella difesa dei propri diritti. Se si va invece nella coda lunga di tutti quelli che non hanno mai avuto il riflesso di rivolgersi a un avvocato al minimo torto, forse c'è un nascosto un mercato di tanti piccoli servizi che si pagano di meno e si smuove qualcosa. Luca, considerazioni conclusive e finali, come si dice, come si dice in ambito istituzionale. Ma mi sembra che il caso in questione cambi la prospettiva, perché un conto è un servizio di avvocato che è di più bassa qualità perché magari l'avvocato non è stimato ma è appena uscito dall'università e quindi, o magari dà la sua assistenza non da una visita faccia a faccia ma lo fa al telefono, online o su altri sistemi, su altri canali, quindi di minore qualità nel senso di relazione è un discorso, però offrire un servizio che è essenziale e che non ha i fronzoli e non ci mette dentro altre cose che lo rendono più costoso non significa abbassare la qualità, significa semplicemente offrire il servizio più efficiente. Più automatizzato. Automazione e, diciamo così, si può anche dire effetto rete, no? Perché indubbiamente anche il ruolo di internet nei servizi di consulenza sta crescendo. Abbiamo fatto una cavalcata per cercare punto per punto di confermare laddove si poteva confermare, ma soprattutto smentire questo articolo del 2009. Lo facciamo ogni tanto proprio per evitare anche il rischio di autocelebrazione, no? Che tutti i discorsi che si fanno intorno a Wired o a queste riviste, diciamo, sul 2.0, 3.0... scatenano inesorabilmente. Noi ringraziamo ancora una volta Luca Conti. Grazie per il suo intervento. Era a Roma e ne abbiamo approfittato. Adesso lo lasciamo ai suoi mille impegni. E invece io vorrei ricordare ancora una volta che tutte le puntate di Conversational possono essere scaricate dal sito, dal blog di Conversational, che è www.conversational.it. Ringrazio tutti per l'ascolto e do appuntamento alla prossima settimana.